Qua siamo in un luogo simbolo che abbiamo scelto per le lotte ambientali in questa città, in questa regione, ed è inaccettabile secondo noi che da parte del comune ci sia la solita retorica green da una parte che però si scontra con una realtà fatta di mancanza di dialogo. La scelta del comitato della settimana scorsa di abbandonare il tavolo secondo noi è più che legittima. Qua bisogna essere chiari: o il tavolo è un tavolo alla pari, dove il comune si confronta con un gruppo di cittadini aperto a qualsiasi tipo di possibilità per la revisione del progetto, oppure non è un tavolo a cui è possibile partecipare. Detto questo, noi abbiamo aderito alla marcia del 17 perché pensiamo sia un momento fondamentale, perché appunto le questioni ambientali in questa regione sono un tema sempre più centrale. Ci troviamo ormai a un anno dall'alluvione, un'alluvione che ha provocato decine di vittime e migliaia di sfollati, e in quest'anno è stato problematica la gestione politica e le responsabilità politiche che questa marcia si intende anche indicare. Da parte del governo abbiamo visto lo stanziamento prima di fondi assolutamente inadeguati rispetto alle stime che erano state fatte dei danni, fino ad arrivare alla beffa di un paio di mesi fa, quando 66 milioni di euro già stanziati per l'alluvione in Emilia-Romagna e nelle Marche sono stati spostati verso l'alluvione in Toscana con una mossa di pura propaganda e di guerra fra poveri che riteniamo assolutamente inaccettabile. Ma vogliamo denunciare anche le responsabilità della regione in questa situazione, perché la legge regionale che parla di consumo di suolo zero in questa regione è assolutamente iniqua, come denunciato da tutte le realtà ambientaliste che in questa regione operano, che permette talmente tante deroghe che l'Emilia-Romagna costantemente negli ultimi anni risulta fra le prime regioni in Italia per consumo di suolo e per aumento di consumo di suolo. Il nostro presidente di regione Bonaccini ha avuto in questo anno prima il solito teatrino di scontro col governo sul nome del commissario straordinario. Quando ha perso quella battaglia abbiamo visto che comunque niente è cambiato, nonostante parole che erano state spese in quei mesi, ed oggi che la situazione continua ad essere drammatica Bonaccini decide di andarsene, di candidarsi per al Parlamento europeo. Per noi le responsabilità sono chiare, sono della regione, sono del governo, per questo parteciperemo alla marcia del 17. Con queste parole d'ordine anche parteciperemo alla manifestazione nazionale del 1° giugno a Roma, per dire che qua vanno cambiate le priorità. Il nostro paese si mette alla guida di missioni di guerra nel Mar Rosso, invia armi in Ucraina, in Israele, ma qua c'è una necessità di cambiare le priorità, di tutelare il territorio, di tutelare le persone che vivono in questo paese, di servizi, di welfare, di diritti che devono ritornare ad esserci.